Buonasera a tutti da Cristina e buonasera Barbara. Siamo in onda con i colori dell'anima e questa sera c'è, purtroppo non abbiamo la nostra sigla, però abbiamo messo una canzone introduttiva che dovrebbe parlare al cuore di tutti, il grande Pino Daniele, Io sto vicino a te. Allora, perché Barbara, lo vogliamo questa sera vogliamo Questa sera vogliamo un po' celebrare Pino Daniele, la sua carriera, la sua arte, la sua musica in uno spirito gioioso, positivo, perché vogliamo ringraziarlo di averci dato tutta questa musica e tutto questo patrimonio, se vogliamo, della musica italiana. Quindi chiamiamo questa trasmissione Pino Daniele in tutte le salse. E questo perché volevamo mettere in evidenza il fatto che Pino Daniele è un artista poliedrico che ha fatto musica, tanti stili di musica diversi, dal blues al rock, al jazz, ma anche a musiche romantiche, aperture internazionali. Quindi vorremmo presentarlo un po' così, con tante canzoni questa sera. E la prima canzone che abbiamo ascoltato, appunto, è Io sto vicino a te, che risale addirittura al 1979. Io non ero ancora nata. Sono molto contenta. E questa canzone, sì, la conosciamo tutti, spero, ma forse no. Perché è ancora un po' napoletano, poi tanto tempo fa. E comunque, insomma, sì, una canzone dolcissima con queste note un po' di blues, che ci presenta questo artista. Ma abbiamo scelto anche un colore questa sera. E il colore è il bianco. Abbiamo pensato al colore bianco perché Pino Daniele aveva i capelli tutti bianchi. Questa è il primo pensiero. E poi anche perché il bianco ci fa pensare alla pace, alla serenità, alla tranquillità, l'amore, dei valori che secondo noi Pino Daniele ha rappresentato bene con le sue musiche, con le sue canzoni. Quindi questa sera Pino Daniele in tutte le salse, però bianco. Va bene, magari ascoltiamo un'altra canzone che ci riporta sempre indietro agli inizi della sua musica, che anche questa è conosciutissima, Yes I Know My Way. E rieccoci qui ai colori dell'anima. Siamo Barbara e Cristina. Adesso mi sentite anche a me? Prima non funzionavano i microfoni, però Esattamente. adesso sì. Allora, oggi, come ha già detto prima Cristina, parliamo di Pino Daniele, un grande musicista italiano, napoletano, che sfortunatamente ci ha lasciato. Il 4 gennaio credo era la data, e quindi adesso oggi noi vogliamo però non essere tristi, vogliamo celebrarlo con la sua musica e oggi sentirete tanti brani, tante canzoni che ha cantato lui e cercheremo un po' di suonarle o di presentarle qui in modo cronologico. Quindi abbiamo già sentito due canzoni degli anni 80 che ha cantato lui. Sì, con la sua equip originale, nella quale c'era anche Tullio De Piscopo, il grande batterista, grande, il batterista che tutti quanti conosciamo, e anche James Senese, che è un bassista nato, un meticcio, che anche lui ha fatto blues come Pino Daniele, e è un po' il frutto la sua musica è il misto tra la musica napoletana e la musica nera, quindi siamo in un mix molto interessante. E questa band, all'inizio degli anni 80, quando il video originale di questa canzone, sono vestiti tutti di bianco. Ecco, ecco, quindi ci ritroviamo col nostro colore scelto. Quindi questo calza a pennello con la nostra, col colore della nostra trasmissione, che ricordiamo è sempre I colori dell'anima. Siamo in onda su Radio Alma 101.9 e ci potete ascoltare anche online su radioalma.eu. E poi cliccate sulla freccetta. E se ci volete chiamare, il nostro numero è il 02 345 2656. Esattamente. Quindi se volete partecipare insieme con noi a questa serata, a questa puntata su Pino Daniele, se anche voi siete dei fan di Pino Daniele, fatevi sentire. E noi siamo qui per partecipare, per partager questa nostra passione. Ma intanto, Barbara, quanto ti piace Pino Daniele? Tanto. No, ma a me è sempre piaciuto, la voce è molto speciale, secondo me era molto dolce, a me mi fa sempre sentire bene quella vedere il personaggio e sentire la musica, mi dava quel senso di pace, e quindi no, mi piace molto, anche se devo dire sicuramente non lo conosco così bene come lo conosci tu, che tu prima mi hai detto che proprio ascoltavi tanto la sua musica, è uno dei tuoi preferiti. Ma io purtroppo ho un passato un po' napoletano. Perché purtroppo? No, purtroppo per ridere. No, anzi, sono molto contenta di aver vissuto alcuni anni della mia vita a Napoli, credo, che mi hanno veramente formata, rafforzata. Sì, resa più forte, più. Sì. No, e quindi a me per quello mi piace, è proprio. Quindi ti piace per la sua dolcezza, per le sue canzoni d'amore, sì, per la sua voce molto dolce. Sì. Ma non immagineresti mai che prima di diventare così dolce, Pino Daniele era sempre incazzato. Ah sì? Spesso era incazzato, e io devo dire che a me le sue canzoni di quest'epoca piacciono molto. Uh-huh. E non si sa, la canzone che ho scelto adesso è dedicata ad una donna che penso gli abbia fatto male. Perché lui l'ha intitolata, pensa un po', T'ha già vedè morta. Ui. Rieccoci qua, sempre in onda con I colori dell'anima su Radio Alma 101.9. Siamo Cristina e Barbara e stiamo facendo una puntata che si dedicata a Pino Daniele in tutte le salse. E lo stiamo presentando, riascoltando, ci stiamo godendo un'ora di musica in compagnia di questo grande artista che purtroppo ci ha lasciato. E l'ultima canzone, T'ha già vedè morta, che era apparentemente dedicata al suo primo amore, come dice il testo della canzone, lui, questa è una canzone del 1993 dell'album Che Dio ti benedica, che era un album anche molto dolce, però ogni tanto ci si arrabbia. Sì. Gli scappava una un po' più, diciamo, meno il temperamento mediterraneo. Ma invece, Barbara, raccontaci un po' dei suoi inizi, di come è diventato un grande musicista. Ok, beh, per prima cosa, lui viene di una famiglia molto povera, famiglia di lavoratori, è stato il primogenito di 6 figli. E ho letto che erano così poveri che a scuola non poteva neanche comprarsi una foto, la foto della classe, ecco, la foto scolastica. Però è stato sempre molto molto bravo, comunque molto si impegnava. Ha imparato la chitarra da autodidatta. Infatti. Quello è una cosa bella. È un grandissimo artista autodidatta. Mm-hmm. E poi la sua carriera artistica l'ha cominciata con il gruppo, e là non so nemmeno se lo pronuncio bene, perché si chiama tipo Batra Comio Macchia. Ok, questo... Cristina, adesso leggi tu un attimo, forse lo sto leggendo male io. Batra Comio Macchia. Ok. Ma non vuol dire niente. Ok, perché ho pensato forse è una cosa napoletana che io non capisco. Ah, non lo so. Vabbè, comunque, ed è stato sì, un gruppo con, io devo dire, non li conosco bene quegli artisti, però forse tu, Cristina, gli dico un attimo: Paolo Raffone, Rosario Germano, Rino Zurzolo, Enzo Avitabile. È un cantante, sì, è un musicista napoletano. E Enzo Cervo. Ok. Comunque, considera che all'epoca noi non eravamo nate. Abbiamo la scusa. E quindi loro hanno iniziato la loro carriera artistica, diciamo, no, o lui almeno, nel 1975. E la cosa che mi piace molto di Pino Daniele è che, come abbiamo già detto, anche lui ha fatto vari tipi di musica. Esatto. Sempre comunque è stato sempre comunque come dire, ha sempre comunque continuato sulla sua linea, più o meno un po' sulla sua linea blues, però ha cambiato molti stili. Però e quindi la musica che a lui piaceva, che lo ha ispirato, sì, è la musica, veramente un mischio di musica. Gli piaceva Elvis Presley, e gli piaceva, che adesso non lo trovo più, non so più a memoria dove l'ho scritto. Vabbè, però comunque tanti tipi diversi di musica. Sì, anche cantanti americani, anche molto, molta musica africana, come lo sentiamo nelle sue canzoni. Negli anni 90 ci sono stati molte influenze dai paesi arabi, dai paesi del sud. Quindi è un artista veramente, come dicevo, poliedrico, che ha voluto sperimentare il mix di varie musiche, di varie culture. Ma noi non siamo qui per fare la lezione, no. Non siamo qui per fare le insegnanti, i professori di musica, che non siamo. Siamo qui per ascoltare buona musica. Brava Cristina, ecco. Cosa ci... Adesso ho trovato una canzone, passiamo sul lato un po' più dolce, visto che abbiamo detto parliamo del colore bianco, la pace, l'amore. Avevo scelto una canzone che Pino Daniele ha cantato insieme ad un'artista italiana, Irene Grandi, e con questa canzone iniziamo un altro modo di vedere Pino Daniele, cioè i suoi duetti. E la prima canzone è Se mi vuoi, che ci farà un po' sognare per qualche minuto, e poi ci risentiamo presto. Rieccoci in onda con I colori dell'anima, siamo sempre Cristina e Barbara, e devo dire che mi dispiace un po' di interrompere la musica e di ritornare in diretta, perché questa musica così tranquilla, rilassante, vabbè, comunque, cari ascoltatori, ci siamo anche noi stasera, stiamo facendo questa puntata in onore di Pino Daniele in tutte le salse. E Barbara, che cosa ci volevi raccontare un po' della sua carriera? No, volevo dire che lui ha fatto tanti duetti con tanti tanti tanti altri artisti, e fra l'altro una cosa che mi è piaciuta è che ha fatto un tour con Jovanotti ed Eros Ramazzotti nel 1994. E in quel tour ognuno interpretava i brani dell'altro. Quindi, bello! Quello mi sembra una... Non ho sentito ancora la musica, dovrei trovarlo su internet. Sì. Mi interesserebbe vedere. Infatti. Tipo Pino Daniele cantare un Eros Ramazzotti o un Jovanotti ancora. È interessante, perché sono comunque tre artisti molto diversi. Sì. Quindi, no, e poi ha fatto... quello con Irene Grandi, la canzone Se mi vuoi, che abbiamo ascoltato proprio adesso, viene da un album che è stato rilasciato, no, come si pubblicato, che è uscito nel 1995, quindi l'anno dopo del tour con Eros Ramazzotti e Jovanotti. E qui vedo proprio una lista piena di, ha fatto tanti duetti, tante... Sì, tantissimi, gli piaceva molto fare queste collaborazioni, e infatti si dice sempre che la diversità è una ricchezza, e dall'unione degli stili più vari e più diversi nascono delle creazioni molto originali, molto, molto interessanti. Infatti lui ha fatto anche delle canzoni con Raiz, per esempio, il cantante degli Alma Megretta, o che ne so, Giovanotti. Pure con Eric Clapton. Anche. Tipo qualche anno fa credo che ha fatto con Eric Clapton, quindi sì, è proprio... Sì, ma penso che per gli artisti sia un piacere, un divertimento fare dei duetti, confrontarsi, incontrarsi, mettersi un po' alla prova, creare, è proprio il momento creativo più... Sì, sì, molto, molto, molto più creativo, penso. Senti, ma mi viene in mente... ma se tu dovessi, quando pensi a Pino Daniele, qual è la prima canzone che ti viene in mente? Napule. Ah, andiamo proprio alle origini, Napule, Napule. No, quello per me è proprio lui, anche è Napoli, lui è Napoli, lui è Napule, non so, non... Non c'è e altro. Poi però questa qua che abbiamo sentito proprio adesso, poi Se mi vuoi, anche questa qua mi viene... Sì, è vero, viene... questa canzone è molto conosciuta. Ma tu lo capisci il testo di Napule? Forse non tutto, anche se il napoletano comunque lo capisco abbastanza, però devo dire che non ho mai ancora provato veramente a capire tutte le parole, perché cantando è forse ancora più, forse se lo leggo capirei, però cantando così forse non ho capito tutto, però più o meno sì. Ok, sì, insomma è universale, anche il napoletano è un po' universale. No. Come no, universale no, però vabbè, gli italiani lo capiscono. Boh, non lo so, ma mia mamma viene comunque da quella zona, quindi mia nonna parlano un po' napoletano, quasi, più o meno, sì, quindi quasi come napoletano. È vero, è vero. Mm-hmm. Però per me, da brava pugliese, è stato molto difficile imparare a capire il napoletano. Quando mi sono trasferita a Napoli mi sentivo una straniera emigrata. Davvero? Il primo anno sì, è stato molto molto difficile, perché non li capivo davvero, questa era la prima difficoltà, e poi pian piano ovviamente ho imparato, adesso capisco tutto. E lo parli pure? Bah, no, non ho mai occasione di parlarlo, però lo capisco. Però sì, in effetti forse le più belle canzoni di Pino Daniele, quelle a cui sono più affezionata, sono le tipo Yes I Know My Way, che ne so, Bella Ambriana, sono le canzoni appunto degli anni 80, quelle napoletane, quelle proprio blues, che però sono tutte in dialetto, oppure spesso sono mischiate dialetto ed inglese. Volevo dire, Yes I Know My Way non mi sembra molto dialetto napoletano. No, però è mischiato, sì, col dialetto, che è anche un mix molto interessante. Quando si fa, di solito si fa il barese mischiato col francese, perché assomiglia, e invece il napoletano, vediamo, Pino Daniele l'ha mischiato con l'inglese, quindi è proprio un mondo globale. Vabbè, la musica comunque è globale. Sì. Ma senti, ritornando a parlare dei duetti, avevo scelto un'altra canzone di Pino Daniele con Giovanotti. Bene. Che si chiama Un deserto di parole, dove vediamo il rap. Rieccoci su Radio Alma, I Colori dell'Anima. Cristina e Barbara questa sera, e Pino Daniele, che è il nostro ospite speciale di eccezione. Vero, Barbara? Sì. Nella nostra testa, no, lui è qua, proprio vicino a noi. Tra poco ci connettiamo con il mondo soprannaturale e avremo un'intervista fantastica con Pino Daniele. Sì. E le canzoni ce le canta live qua, ecco, quindi non... Infatti abbiamo preparato tutta l'attrezzatura, i microfoni, tutto a posto questa sera, perfetto, perché abbiamo un grande ospite. Ecco. Ecco. E abbiamo appena ascoltato Non calpestare i fiori del deserto, anche questa canzone è del 1995, è tratta dall'album Non calpestare i fiori nel deserto, ma la canzone si chiama Un deserto di parole. E come avete potuto ascoltare, lui la cantava insieme con Jovanotti. E questo album è uno, nella sua ricerca musicale, è l'album in cui lui ha mescolato la musica latina con, italiana, con le sonorità del Nord Africa e del mondo arabo. E si sente molto nella sua chitarra, devo dire, vero Barbara? Yes. Si sente l'influenza, il tamburo e la sua chitarra che assomiglia al liuto. E riguardo a questo album, che doveva essere un'apertura verso le nuove culture, verso la differenza e anche come sì, un'apertura verso la musica altra, Pino Daniele spiega questa sua scelta dicendo che l'amore fa superare le mode e le epoche. L'amore è un sentimento che non cambia, anche a distanza di anni. Oh, che dolce. Quindi qui abbiamo trovato una delle idee, insomma, di questo grande artista che condividiamo e che stasera vorremmo un po' condividere con tutti i nostri ascoltatori e anche un po' portare alla ribalta, visto che nella situazione attuale abbiamo tanti altri motivi per preoccuparci, per essere un po' neri. Noi stasera vogliamo essere bianchi. Sì. Vogliamo celebrare l'amore, l'interculturalità, la differenza, la dolcezza e la musica in generale. Esatto. Sì. Tutti questi, vogliamo portare dei valori positivi. E poi, perché no, i paesi del Mediterraneo, che sono così vicini alla nostra Italia e soprattutto a Napoli, ma anche al sud. Sì. Quanti anni hai vissuto a Napoli, Cristina? Ah, non tanti. Tre e mezzo. Bello. E lì, non so, quando eri lì non c'erano mai concerti di Pino Daniele o non... Devo dire, mi sembra di no, ma io ho visto una volta Pino Daniele in concerto, però l'ho visto a Bari. Ah, l'hai visto? Sì, ah, sì, sì. Che bello! L'ho visto appunto durante quegli anni, sì, gli anni dell'università, però l'ho visto a Bari. Ok. E me lo ricordo, sì, è stato molto bello e mi ricordo che quello che a me piace di più nei concerti, e penso che piaccia a tutti, sono le improvvisazioni, le variazioni sul tema. Sì. E mi ricordo che sì, Pino Daniele aveva fatto molte, molte improvvisazioni sul tema, sulla chitarra solista, che erano molto belle, sì. Però è passato tanto tempo, purtroppo. E com'è lui in concerto? Com'era lui in concerto? Parlava, raccontava anche o era proprio musicista? Non ti ricordi più? Sì, ma è stato un bel concerto. Ha parlato un po' con il pubblico, ma non tantissimo. Devo dire che l'artista che ho visto, dei concerti che ho visto, quello che ha parlato di più con il pubblico era Edoardo Bennato. Ok. Edoardo Bennato me lo ricordo che faceva proprio dei discorsi, e invece di Pino Daniele non ho questo ricordo, ricordo più che altro la chitarra, la musica. Okay. Quindi questo parla da sé. Proprio musicista, sì sì. E poi mi sembrava anche una persona abbastanza riservata, non si sapeva mai tanto su di lui, non andava, era molto artista, però non... poco gossip. Ecco, è vero. Dava i fatti suoi, sì. Stava tranquillo. Esatto. Anche questa è una cosa bella che mi piace. Cosa non... sì, sì, molto simpatica. Sì, sì. Simpatica, condivisibile. Sì. Perché sì, l'artista è diverso dalla persona, dall'uomo. E ci stiamo un po' attardando sui ricordi di Pino Daniele, però in effetti anche questo è lo scopo della nostra puntata, di lui, ricordare di lui. Ma intanto, se voi volete aggiungere qualche informazione in più perché avete visto altri concerti più piccanti, più interessanti, avete la memoria migliore della mia, ci potete sempre chiamare al numero 02-345-2656 e se chiamate dall'Italia mettete il prefisso 0032. Esattamente. Ma che altre canzoni ci ha portato Cristina? Così ascoltiamo un massimo di canzoni oggi. Sì, allora io farei un salto indietro, sempre parlando dei duetti che Pino Daniele ha fatto con tanti artisti italiani e stranieri, ho trovato un duetto tra Pino Daniele e Franco Battiato, che è una cosa abbastanza, per me, molto originale. E la canzone si chiama Quitte Nomar. Rieccoci sempre sui colori dell'anima, siamo sempre Cristina e Barbara, e con Pino Daniele in tutte le salse. E penso che adesso abbiamo proprio esplorato una nuova salsa, perché questa è una versione molto innovativa di Quitte Nomar. Sì, siamo una versione totalmente jazz, molto, molto elegante, molto soft. Bellissima, non la conoscevo. Molto raffinata. Infatti siamo ritornati indietro nel tempo, come ti dicevo, perché questa canzone è dell'album. Qual era l'album? Show Live del 1984. Ed era un album con addirittura due CD e tantissime canzoni, però l'originale è soltanto in napoletano. Ed è. Sì, è una canzone proprio appassionata che parla del mare. Penso che questa è una tematica che si può capire soltanto quando si è nati in un paese di mare, in una città di mare. Perché anche io, che comunque vengo dal sud e che il mare è vicino alla mia terra, non ho questo rapporto così intimo con il mare. Invece conosco gente di Napoli e dintorni che non possono vivere senza vedere il mare. Quindi Pino Daniele ha voluto fare questo omaggio al mare, che è anche un po' triste, se vogliamo, un po' malinconico. Però in questa versione con Franco Battiato hanno mescolato la Sicilia e la Campania, e devo dire che il risultato è molto, Bello. molto bello, sì, innovativo. Barbara sta sognando. Sì. No, sto pensando, adesso devo chiederti così, della penna USB con la musica, così me la copio, così Ah, voglio averla. sì, va bene, dai, va bene. Non glielo diciamo. Ma intanto che cosa? Tu che hai trovato qualche altra notizia un po' piccante da raccontarci? Della vita di Pino Daniele, adesso non tantissimo, tranne allora, come abbiamo già detto, che lui ha cantato con tanti tanti musicisti diversi. Però una cosa che mi ha colpito comunque è che ha anche cantato con Pavarotti e hanno cantato anche insieme Napulé. E proprio lì, vedere Pavarotti e Pino Daniele insieme sono due cose completamente diverse comunque di musica. Esatto. E lì, Sono proprio agli antipodi. tipo, com'è? Sono proprio agli antipodi. Sì. E quindi no. Secondo me è un artista fantastico, è qualcuno che sa fare proprio musica con tanti artisti diversi che non fanno Lo stesso tipo stesso di tipo di musica, musica. sì, Ah, esatto. quindi quello è molto bello. Questo è un segno della grandezza, ma appunto proprio per parlare di artisti che non fanno la stessa musica, io avrei un altro duetto da proporre, Pino Daniele con Noah, The Desert in My Head. E rieccoci qui con i colori dell'anima, siamo ancora Barbara e Cristina, qui stiamo parlando di Pino Daniele, un cantante bravissimo, nostro diciamo quasi preferito, per oggi è il nostro preferito qui. Esatto, il nostro ospite Ecco. d'eccezione. E abbiamo appena ascoltato The Desert in My Head di Pino Daniele e Noah, che fa parte dell'album Dimmi che cosa succede sulla Terra, che è uscito nel 1997. Ho fatto qualche ricerchina e ho trovato che questo album ha avuto un grandissimo successo. E addirittura nel 1997 ha venduto 900.000 copie. E Wow. il primo giorno in cui è uscito nel mercato, ha è arrivato subito al secondo posto della classifica FIMI, che credo che sia musica italiana o qualcosa del genere, e poi durante la seconda settimana è stato primo in classifica per tutta la settimana appena uscito, quindi è un grande successo del nostro grande Pino Daniele. E anche questo fa parte, l'abbiamo scelto, è stato anche un album che ha ricevuto la nomination come disco italiano dell'anno nel 1998 al Premio Italiano della Musica. Quindi Pino Daniele non è che piace soltanto alla gente, abbiamo anche le prove, i fatti. Ovviamente scherziamo, diciamo, ci divertiamo. E, mentre qui ci sono rumori alquanto strani, noi continuiamo a parlare di questo grande artista e delle sue collaborazioni con i cantanti e musicisti stranieri. E anche questo album si sente ancora l'influenza dell'Oriente, infatti no, un artista palestinese, ma vogliamo ritornare un pochino sulla terra al giorno d'oggi e Barbara ci riporta direttamente a Bruxelles con alcune notizie. Allora, una cosa che volevo dirvi, che da tanti anni so e che finalmente adesso ho provato per la prima volta, è quel sito che si chiama Arsène 50, quindi A-R-S-E-N, credo, forse anche con una E dopo, non mi ricordo, Arsène, sì, A-R-S-E-N-E, 50, dove si trovano biglietti per vari concerti, per il teatro, per il cinema, e si trovano a metà prezzo, sempre last minute, quindi bisogna sempre comprare per il giorno stesso i biglietti, e quindi è una cosa molto bella per conoscere anche un po' di cultura qui a Bruxelles, che ce n'è veramente, c'è tanto, sì, tanti spettacoli, concerti, festival, esatto, cinema, eccetera. Molto ricco. Quindi raccomando veramente quel sito Arsène 50. Vedete lì, se avete una serata dove non sapete, volete fare qualcosa, non sapete cosa fare ancora, guardate cosa offre quel sito. Esatto, grazie. Io poco fa ho visto la revue 2014 nei teatri della Galerie Royale. E anche quello lo raccomando, si dice raccomando? Sì, sì, sì, sì. Ecco, anche quello lo raccomando, è un pezzo comunque carino che fa ricordare un po' le cose che sono successe a Bruxelles, di politica, ma anche cose un po' sociali, un po', non so, del Belgio e specialmente a Bruxelles nel 2014, quindi fa ridere, c'è un po' di musica, un po' di carino. Ok, grazie mille per questo. E poi questa informazione. L'unica, sì, una. Adesso avremo il Brussels Jazz Festival che comincia il 13 gennaio e finisce il 24. Quindi anche lì sicuramente, se vi interessa jazz, ci sarà un programma carino. Ok. E il Light Festival a Ghent, che comincia credo il 31 gennaio e finisce forse il 2 febbraio, non sono sicura, ma è quel weekend, l'ultimo weekend a gennaio, che ho sentito è molto bello, è tutta la città, ci sono delle illuminazioni speciali. E come si chiama? Il Light Festival. Light credo, Festival, credo. Il festival delle luci. Delle luci a Ghent, sì. Ok, grazie mille Barbara per tutte queste informazioni, queste tutte per nostre serate, per le nostre uscite, il nostro divertimento. Siamo in chiusura qui, siamo in quindi chiusura.